te sono mattonella. No, non essere geloso, se con gli altri parlo a due. Non essere furioso, se con gli altri parlo e rap. Con te, con te, con te, che sei la mia passione. Io ballo il ballo del mattone. Lentamente, guancia a guancia, sulla stessa mattonella, no,